Io sono in ogni luogo, io sono dentro di voi, sono dentro ognuno di voi che ascoltate. Guardatevi dentro e mi troverete lì. E io vi saluterò. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. La notizia è ufficiale, la frittata è fatta. Allegramente col consenso generale, la frittata è fatta. Continua a parlare, prego, tanto l'ascoltiamo. Si pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge numero 1651 di conversione del decreto legge numero 133 del 2014. Nel terzo in un momento non te ne sei reso conto, la frittata è fatta. Correnti, ballerine e mostri, autorità, consigli per gli acquisti. Ma vergogna, ma vergogna, ma vergogna, ma vergogna. Parlano, parlano di democrazia, che stiamo bloccando il diritto democratico di votare. Hanno distrutto la democrazia qua dentro. Non si discute più. Cronache da una giornata normale al Senato. Ci sono alcuni del PD che dicono, alcuni del Movimento 5 Stelle ci hanno augurato un tumore ai figli. Che ne so, magari nella concitazione scappa di tutto, scappano anche robe del genere. Vai a sapere. Giornata di ordinaria amministrazione al Senato, dentro e fuori, quando è richiesta la FI. Ovviamente non ho seguito niente queste cose, ma avremo qualcuno che invece vive praticamente bivacca tra Senato e Camera e sa tutto di queste cose. È vincino, tu sai tutto di quello che è successo, ovviamente. Peccato che io ho seguito la Camera, ho seguito la ridicola sfiducia ad Alfano cioè proprio hai sbagliato tutto. Però quando c'è stato quello del PD che ha detto che ora bisogna usare invece di manganese lo spray al peperoncino, quindi casare praticamente. Come casare? Ma stai scherzando? Tu metti là dei tubi enormi con delle macchie enormi che buttano gas su 1000 persone, no? Buttano spray al peperoncino, tu vedi che poi il povero. Ma no, ma lo spray ce l'ha ogni agente, ce l'avrà uno. Ognuno. No, è vero, ci sarà dei camion con di spray al peperoncino. Sì, il povero Landini verrà gasato, fatto completo. No, mi vuoi dare? Che per tre giorni non riuscirà a dire nulla di connesso. No. Senti un po', mi vuoi dire un giudizio politico sintetico su Alfano, che l'hai seguito? Alfano è un delinquente abituale. No. Politico, allora, detto un giudizio politico. Giudizio politico, va bene. Allora, vedi Alfano come si muove. Allora, sta un attimo girato da un lato, poi si volta e girato dall'altro lato, poi altre tre parole e si gira dall'altro lato. Fa la tarantella quando parla lui. No? La tarantella. Poi da un lato all'altro. Vabbè, ma non è un giudizio politico. Il bello è questo, che non legge cose sue, legge cose che perché lui è incapace di scrivere. I dirigenti della polizia gli hanno fatto. Fermati, ti ho chiesto un giudizio politico. Politico che possiamo parlare, politica con Alfano, dai. Vabbè, la frittata è fatta. Come parlare di politica con quelli del 5 Stelle, dai. È partito vicino. Picchiatori che bloccano la democrazia, scusami. Picchiatori? Certo, si mettono là, impediscono il voto di fiducia, che cos'è? Scusami. Ah, questa la dobbiamo twittare tra poco. Lorenzo, per favore, Lorenzo Nespoli, che saluto in redazione, insieme a Peter Bescapè. No, Lorenzo Nespoli, subito, vincino, twitta questa, per favore, che quelli del Movimento 5 Stelle gli fa passare una bella giornata. Vincino, quelli del Movimento 5 Stelle sono dei picchiatori, va bene così? Sì, hanno bloccato, scusa, i picchiatori fascisti che hanno bloccato picchiatori fascisti della democrazia, sì. Va bene. Hanno bloccato va bene. Vincino, fermati. Intanto fammi aprire il Parlamento, perché oggi c'è un nuovo ingresso che voglio salutare. Adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi. Grazie. Allora, le 6:35 minuti, voglio salutare, chissà se si è già pentito di essere buttato in questo calderone, Carmelo Abbate, giornalista, collega di Panorama. Buongiorno Carmelo, come stai? Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti, benissimo. Stavo ridendo perché prima mi hai fatto ridere tu con questa cosa dei 5 Stelle che dicono ci hanno augurato addirittura un tumore. Quelli del PD dicono, ci hanno circondato, alcuni di loro ci hanno augurato un tumore ai figli. Mamma mia. Sembra veramente inverosimile. Ma no, non voglio così, l'ho letto su Repubblica, non voglio pensare che sia vero, ma chi lo sa. Hai sentito, Vincino, vuoi aggiungere qualcosa su Alfano, Carmelo? Non lo so. Su Alfano aggiungo che purtroppo... E quindi rimane ancora lì, questo è il punto. Sì. Giudizio, faccio un giudizio politico e via. Via, no, come via? Via, basta, è Vincino, che è Alfano che è intervenuto. Vabbè, quello ci controlla tutti, là, sì. Con la sua... C'ha un super telefono che controlla tutti i telefoni. Che devi fare? Cioè... Se stasera mi arrestano, tu lo sai che è colpa tua, quello non lo sopporto da sempre, quando era nella DC non lo sopporto. Sei abbastanza capito. I giovani democristiani di Agrigento che ne facevano di tutti i colori e traccheggiavano con tutti i tipi. Vabbè, ma comunque senti qui, tu che hai dato dei picchiatori fascisti. Sì. Scusami, hanno bloccato l'esercizio del voto, scusami una cosa. Sì, si sono stesi sui banchi del governo. Hanno proprio bloccato perché come avviene la fiducia? Che ognuno passa e va e dice sì, no, bene. Se quelli bloccano, no, e se quello scemo di presidente di turno non gli manda 200 commessi... Ma smettila, come che gli scemo? Deve mandare 200 commessi per fare passare il traffico degli scemi senatori che passano e dicono sì, no. Tutti scemi. Carmelo, ti abbiamo recuperato, hai nominato Alfano e è caduto tutto, vedi, stai attento. Devo essere, è un segno, quindi stai attento. È uno straordinario ministro dell'interno, esatto. Vediamo se la linea tiene. Esatto, stai attento. Sentite qua, visto che Vincino ha dato dei picchiatori fascisti a quelli del Movimento 5 Stelle, sono loro che invece dicono mandate due manganelli anche qui. Fuori dall'aula, andateci voi fuori dall'aula. Che siete senza spina dorsale! Fate mandare due manganelli pure qua, così! Vincino, fate mandare due manganelli! Bene, che non si sono viste, manco quando ci fu la carica della polizia con D'Inzeo e ci furono dei morti in piazza. Ma dai, proteste così si vedono. No, i comunisti, quando ci furono 10 morti in piazza luglio 60, non hanno bloccato così la Camera dei Deputati e il Senato, no. Ma questa era fuori, mandate due manganelli anche qui, questa era fuori. Tu Carmelo, cosa fai? La guardi, la politica la segui, ti appassionano queste cose? Sai che ieri Renzi e Berlusconi sono incontrati per 2 ore, no? Ma certo, assolutamente sì, mi appassiona, devo dire che per quella che è la mia visione... Le elezioni credo che siano imminenti, cioè se si voterà a breve. Rimango assolutamente convinto che Renzi abbia l'obiettivo di andare a votare. Cioè, voglio dire, questa legge di stabilità tutto si può dire tranne che contenga un disegno strategico di cambiamento delle sorti di un paese. A me sembra l'ennesima, in qualche modo, l'ennesimo strumento con cui si distribuisce qualcosa qui, qualcosa lì, prima gli 80 euro, poi adesso devo dire anche nella direzione giusta, che è quella delle imprese, lo sgravio dell'IRA per la componente lavoro, però mi sembra che l'obiettivo sia quello di andare a votare a breve, cioè anche se perché se vai a vedere fatta la tara a tutti questi annunci fantasmagorici, Cioè, mi spieghi tu se poi, come dire, la rivoluzione, il Job Act, il cambiamento del mercato del lavoro, e poi guardi le previsioni sulla disoccupazione e si prevede che dal 12,6 passeremo al 12,4 nel 2016. Sì, ma c'è da dire che questa è la sensazione, pare, avuta anche da Berlusconi. Sapete che Berlusconi ieri ha incontrato Renzi, sai che ha detto Vincino ai suoi uscendo, ha detto: ho capito, oggi ho capito che Renzi vuol proprio andare a votare a marzo. E quindi che fa? Cerca di prendere tempo lui, perché chiaramente non ha l'agibilità politica, e Renzi pare che gli abbia detto: guarda che io faccio la riforma elettorale con chi qualcuno lo trovo con cui fare la riforma, per cui sbrighiamoci, la vuoi fare o non la vuoi fare? Vincino, avevo una faccia in macchina, guarda, lui. Ma chi? Berlusconi. Letto, vedi quella foto là, sì. Il Berlusconi è letto in macchina, che faccia aveva? Una faccia di come uno che ha mangiato malissimo, c'ha i figli, cioè proprio non è che il peggior pranzo della sua vita, la peggiore cosa, stare accanto. Non l'aveva digerito, è proprio. Guarda la foto, bene, e guarda anche il disegno sul foglio che lo racconta abbastanza bene. Eccola, chissà chi ha fatto questo disegno sul foglio. Là, ecco. Carmelo Abbate ha fatto. Esatto. Allora, tra l'altro, messaggio, SMS al 349-238-6666, caro Milan. Oltre che due manganellate a Vincino, magari quelli del 5 Stelle avessero picchiato qualche porco in Parlamento. Giampiero ci scrive questo pensiero sobrio, Vincino. Guarda, manganellate ne ho prese tante, guarda. Io sono stato pure picchiato dai carabinieri dentro una caserma. Quando mi hanno arrestato mi hanno picchiato là dentro. Ma no, l'altra volta avevi detto che avevi ti eri salvato grazie agli occhiali. Certo, ho urlato come un pazzo, certo, però hanno iniziato a picchiarmi, l'intenzione c'era, due colpi mi sono arrivati, che vuoi? Tu lo sai, Carmelo, che il nostro Vincino è stato arrestato in passato, una volta ci ha raccontato questa cosa. Da normale e da militare pure. Da normale e da militare. È finito due volte in carcere, caro Carmelo. C'era già Alfano, ministro dell'interno, immagino. Non lo so, qua si parla. Loro ci meritavano una scelba. Si meritavano scelba. Chi? Quelli del Movimento 5 Stelle? Quelli del 5 Stelle. Ecco, oggi è scatenatissimo. Non auguriamo scelba a nessuno. Non auguriamo scelba a nessuno di nessun tipo e cosa, no. Vabbè. Soltanto che i commessi facessero il loro lavoro. Comunque, Carmelo, per te si va a votare a marzo. Questo è l'obiettivo di Renzi. Ma penso di sì, cioè obiettivamente mi sembra anche abbastanza esplicito. Voglio dire. Poi adesso bisogna vedere cosa dirà lo spin doctor di Renzi, che è? Chi è? José Mourinho, secondo me. José Mourinho, addirittura. Io stavo pensando a Davide Serra, stavo pensando... Non ci abbiamo capito nulla, secondo me. L'ha esplicitato quando ha fatto tutta questa... il discorso di Brescia, no? Di qualche giorno fa, sì. I nemici, il rumore del, come dire, il complotto, i nemici che sono dietro la porta, cioè che sì, è surreale, sta roba del complotto, effettivamente è surreale, cercati disperatamente nemico perché ormai li abbiamo fatti fuori tutti e da qualche parte qualcuno bisogna anche trovarlo, anche uno al giorno, senza nemici poi tocca parlare in qualche modo di fatti e risultati, soltanto di fatti e risultati. Però sentite, ne ha tantissimi nemici lui. Ne ha tantissimi nemici, ma non contano nulla, cioè è politico. Ma non è vero che non contano ma nulla. Dai, su. Ma stai scherzando che non contano nulla, scusami. C'ha quattro ministri del CCD, là. NCD. C'ha 200 deputati bersaniani, no? Cioè lui nella situazione attuale sta facendo il massimo possibile impossibile. Peraltro tu dicevi una cosa, Davide Serra si è iscritto al PD. Come no? Oggi fa un'intervista a Repubblica, dice sono il lupo della City, chiudo le società alle Cayman, con la mia beneficenza mantengo 8.000 bambini in Africa. Queste cose dice Davide Serra. E però che vuoi dire, Vincino? E però... al Partito Repubblicano a Wall Street. Ma come un Partito Repubblicano? Smettila. Sì, americano, sì, ti giuro. Ma io non riesco a stare senza... Pensava la vittoria, l'hanno visto tutti nella Io non riesco a stare senza il mio Brunetta del giorno, e a Ballarò è stato uno spettacolo, dopo essersela presa con Floris, tu lavori avanti, ecco il round con Giannini. E non è democrazia rozza male il Parlamento. Faccio il fazioso sempre, sì. Però queste metodiche le abbiamo già conosciute. No, guardi, ho fatto bene i conti. Di fiducia? Noi abbiamo fatto, no? Berlusconi, no, l'ultimo Berlusconi, no, se io non ricordo male, ne ha messe 77. Vice direttore. Non sono vice direttore. Ho lasciato la vice direzione di Repubblica. Sei stato licenziato. Annuncio ufficialmente. Sei stato licenziato. Carmelo, ma che c'ha Brunetta? Guarda che una volta viene lì da te in TV con Nuzzi, eccetera, te le canta, te le suona. Ma che c'ha Brunetta? Sei stato licenziato da Repubblica. Ma credo che voglio dire, è in una situazione disperata, cioè con Forza Italia che Berlusconi da una parte ha deciso di contare in Parlamento per non contare più nel Paese, voglio dire, da un punto di vista politico, se oggi uno pensa al centrodestra, pensa a Forza Italia, qual è il tema forte, l'istanza forte del Paese che in qualche modo ti senti intestare a Forza Italia? A me non viene. Dall'altro lato c'è Salvini che secondo me adesso giustamente si incomincia a prendere seriamente in considerazione, ma credo che le sorprese saranno amare per tutti. Io ti faccio una riflessione dei giorni scorsi quando ci fu la famosa manifestazione dei 40.000 secondo molti o dei 100.000 secondo Salvini a Milano, sì. No? Lì si sta a parlare in qualche modo di Salvini che porta la gente in piazza, di Salvini che soffia sul fuoco. Il problema è completamente opposto e mi stupisce. Cioè ci sono 100.000 40.000 persone che vanno invece in piazza e che trascinano Salvini in piazza, cioè sì. Ci sono delle istanze forti nella gente che hanno bisogno maledettamente di una rappresentanza politica. Salvini in qualche modo da astuto politico qual è, sta provando a intercettarle e a dargli da presentare. Brunetta che le deve fare, poverino. Cioè, da un lato c'è Vincino, sentimi, che c'hai con Brunetta? Brunetta, i pullman, portare 40.000 persone a Milano non è che ci vuole molto, Vogliono mille pullman messi là, affittati e portati. Vabbè. Lo faceva anche Bossi più o meno. Andiamo al traffico. 24 mattino. Volevo dire, tu sai chi è il santo protettore dei sindacalisti? Forse non lo sai, si chiama Sanguisuga. Caro Alessandro, io mi faccio una bella telefonata a te invece di fare alla direttrice per Rossella Brescia. Ma comprati un bel poster così ti rifai gli occhi e la finisci una volta per tutte. Ma sto cazzo di Renzi chi ci ha messo a capo di governo? Cioè questo è figlioccio di Berlusconi, quello che dice Berlusconi lui fa. Tu farà butto, io non vado più a votare perché sono tutte disoneste, ladri. Ai lontani anni Ottanta Alessandro Milan tappava la terra coltivando ortaggi di ogni tipo in quella remota località di nome Piatera. Bravo Alessandro, bravo, bravo, bravo, bravo. Adesso costa Rossella Brescia una cosa assurda, secca secca, sembra una Barbie finta, ma proprio c'hai dei gusti di donne schifosi, se fossi tua moglie quante botte ti darei, cretino d'un Milan. Rossella Brescia, pensa a te, giorno e notte, pensa a te, quando vieni qua da me. Beh, ma ho lanciato questo contest, Carmelo, se non sei capito, ho lanciato questo contest, vorrei Rossella Brescia un giorno qui al mattino al Parlamento. Abbiamo anche lanciato una petizione scrivendo tutti alla direttrice di RDS responsabile Anna Pettinelli, ricordate a.pettinelli@rds.it. E Carmelo, come dire, qualcuno l'ha preso bene, qualcuno invoca mia moglie, qualcuno. Devo dire, è straordinario, Alessandro. No, appoggerò, perché la seguo, ti seguo su Twitter, su queste campagne, quindi appoggerò scrivi ad a.pettinelli, Anna Pettinelli, @rds.it, dire, cara Anna, vuoi mandare Rossella Brescia una volta da Alessandro Mina? Sono Carmelo Abbate, bisogna anche avere persone VIP che ci appoggiano, no? Vincino, tu non hai ancora scritto? Assolutamente. assolutamente no. No, è male. Cioè, male, scrivi. Scrivi. No, ma stavo ero distratto perché stavo cercando di fare un tweet, ma non per risposta. Stavi cercando di. Era bloccato, c'era cioè il computer più lento del mondo. Stai già rispondendo a tutti, quelli del Movimento 5 Stelle, ma non l'ho ancora twittata io. No, appena finisco alle 7 lo twitto io, è quello che hai detto sui fascisti picchiatori. Che c'hai? Ti sei allontanato dal cellulare. Vabbè, allora qui attenzione, devo fare questa domanda a Carmelo Abbate. Noi abbiamo avuto Antonio Di Pietro di recente, okay, che ci ha detto come orche, che già Antonio Di Pietro cade la linea come su Alfano, no? No. Vediamolo, un po' meno potente allora di Alfano, Di Pietro. No, la linea tiene. Di Pietro, no, vedi che c'è la linea. Di Pietro. No, vedi che è sempre in linea. Che comunque Di Pietro si vuole candidare a Milano. Allora, tu hai scritto questo libro che si chiama Bolero, una perfetta storia italiana, edizioni PM. Racconta, tra l'altro, insomma, cosa racconti di Craxi? Perché questo è di Craxi. Racconto Craxi attraverso la storia di un uomo che è stato a lui fedele negli anni e nei secoli, no? Cioè, era un fotografo, il fotografo Umberto Cicconi. Perfetto. Che penserebbe Craxi della candidatura di Di Pietro, secondo te, a sindaco di Milano? È caduta la linea? No, c'è ancora la linea. Fidati che cadrà la linea. No. No, che penserebbe Craxi? Secondo me Craxi penserebbe, direbbe a Cicconi: Umberto, per favore, pensaci tu, perché questo... Cioè, che fa? E sai cosa farebbe Umberto? Umberto potrebbe fare due cose. La prima cosa potrebbe fare che una mattina Montenero di Bisaccia, sì, e tutto il Molise si sveglia con le scritte sui muri del comune, del tribunale: Di Pietro resta qui, Di Pietro non andare a Milano, Di Pietro ti vogliamo bene, Di Pietro. Questa è l'opzione A. L'opzione B è che invece Montenero di Bisaccio va a fuoco in piena notte, come i vecchi castelli attaccati. Vabbè. Chi lo sa che penserà? Insomma, ma tu, no. Non so, invece Vincino, tu te lo vedi Di Pietro? Io qua, quando... 0,3% prende Milano. Ma lo 0,3, non arriva all'1. Ma ho capito, me. Ma se uno si butta in un'avventura del genere avrà fatto un po' di calcoli, no? Assolutamente no, Di Pietro è incapace di fare i calcoli. Eccola, uno più uno più tre non è la sua scienza. Sì, sistemiamo anche Di Pietro, che deve fare, vabbè. Alessandro, seriamente credo che Craxi direbbe: milanesi, ve lo siete meritato. Cioè, ripenserebbe a quei giorni di Mani Pulite in cui lui camminava per strada e trovava che lo soffrì tantissimo, le magliette che inneggiavano a Di Pietro, le spille, Embrera. Era come dire, il trio era un tifo da stadio, esatto, per i magistrati. Tifo da stadio. E lui questa roba, secondo me, se l'è portata dentro la tomba, questa ferita. E oggi, secondo me, direbbe proprio, cioè, vi siete meritati il nulla e spero che venga anche eletto e vi ritroverete con Di Pietro. Vabbè. Secondo me lui di politica ne capiva tanta, però Craxi ne capiva tanta e capiva quindi che Di Pietro più del 0,2% non avrebbe preso, e quindi tanta preoccupazione non ce l'aveva. Un conto era il 92 che è stato passato, poi c'è stato il 94, poi c'è stata la trattativa, poi c'è stato il 2001, poi c'è stato le 3.000 cose in mezzo, perché stiamo passando di un'era geologica molto lontana. Non, infatti quando parlano questi qua sembrano questi qua chi sono? I quattro magistrati di Mani Pulite, no? Sì, giudizio politico su Di Pietro. Ah, beh, dai, giudizio politico su Di Pietro, che poi ci ascolta. Sono molto meglio di Di Pietro, però capito. Sono pure loro antichi. Ecco. Abbiamo iniziato col giudizio politico su Alfano, vuoi chiudere con quello su Di Pietro? Abbiamo già chiuso? No. Di nuovo il traffico? No. No, abbiamo già chiuso, sì. Ma vuoi dare un giudizio politico su Di Pietro per concludere? L'ha dato la storia, la Gabbanelli, l'ha dato il report, l'hanno dato tutti. Vabbè, stop. Va bene, allora io vi devo salutare, grazie a Vincino e grazie a Carmelo Abbate, giornalista di Panorama. Voglio ricordare anche il suo libro, Bolero, una perfetta storia italiana, lo trovate in libreria, ovviamente, edito da PM. E se ti sei divertito, Carmelo, in questa gabbia di matti. Mi sono divertito, adesso aderisco alla campagna Rossella Brescia. Oh, bravo, Free Rossella Brescia, questa campagna, Free Rossella Brescia. Ciao, alla prossima! Volete dire la vostra? 02-4652-4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02-4652-4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Questo è il momento della rassegna stampa. Amici debosciati d'Italia, che vi siete svegliati da poco con gli occhi che ancora vi stropicciate, pronti alle vostre colazioni, o magari se siete con noi dalle 6.30, bravi! Bravi, perché noi siamo in onda dalle 6.30, ricordate? E più avanti invece parleremo di che cosa? Parleremo di questo rischio di infrazione per l'Italia perché trattiamo male i Rom. Questo è quello che ha denunciato un'associazione vicina ai Rom e questo è il senso di una lettera di chiarimenti che è arrivata dalla Commissione Europea. Riguarda soprattutto un campo che c'è a Roma. Parleremo di questo alle 8.15, così come parleremo di licenziamenti dipendenti pubblici. Succede all'ASL di Verona, dove sono stati colti a fare altro dopo aver timbrato, ma sono stati reintegrati dal giudice del lavoro. Scopriremo perché, questo alle 8.45. Intanto andiamo a leggere i giornali. Questo giovedì 6 novembre sono molti quotidiani che aprono sulle elezioni americane di midterm. Dopo la sconfitta di Obama, il titolo del Sole 24 Ore è più finanziario, dollaro e Wall Street record, questo è il titolo di prima pagina, mentre per il Corriere della Sera Obama è un presidente dimezzato, i repubblicani trionfano e controllano il Congresso. Per il Messaggero Obama schiaffo dall'America. Mentre Il Giorno mette la foto di Obama in prima pagina, il titolo è Sconfitto. Il Manifesto uguale, mette la foto di Obama con una faccia emblematica e il titolo è Round Zero. Mentre Il Secolo XIX, Obama, il sogno è finito. Repubblica invece, siamo sulla politica italiana. Renzi a Berlusconi, decidi sulle riforme o il patto salterà. La Stampa, riforme, ora Berlusconi frena Renzi. Il Fatto Quotidiano, Renzi tresca con Berlusconi e Verdini e copre le balle di Alfano. Mentre Il Giornale, Renzi arma la pistola contro il PD, questo è il titolo di prima pagina. Libero invece, truccate le primarie del PD, questo è il titolo di prima pagina. E sono una denuncia, un'intercettazione del parlamentare Di Stefano che era indagato per corruzione che imbarazza i democratici. Ma voglio partire da un uomo che è al centro dell'attenzione da giorni. Si tratta del fondatore e numero uno di Algebris Investments, Davide Serra, il finanziere di Renzi, così è stato definito dai titoli di giornale. Oggi viene intervistato da Repubblica da Enrico Franceschini, a pagina 18 dice lui: non sono il lupo della City, chiudo la società dei Cayman e mi iscrivo al Partito Democratico. Dice di se stesso: ho studiato dai gesuiti, ho fatto il Boy Scout, ho giocato a pallavolo fino in A2, sono il primo laureato nella storia della mia famiglia, mantengo 8.000 bambini in Africa con la beneficenza e ho sempre votato per il centro-sinistra. Quando studiavo alla Bocconi, un professore tenne un corso su George Soros, mi appassionai alla materia e dopo la laurea ho mandato 100 curricula a società italiane. Nessuno mi ha risposto, 100 curricula invece in giro per il mondo e la Morgan Stanley mi ha assunto come analista. A 30 anni ero il più giovane direttore del Dipartimento Ricerca nella storia della Morgan Stanley e mi son detto: se son bravo a valutare opportunità di investimento, posso fare un mio business. Sono partito io e una segretaria, ora dirigo 22 persone con uffici a Boston, Singapore e presto a Milano, gestendo 2 miliardi e mezzo di dollari di investimenti. Sono uno stacanovista, lavoro dalle 6 del mattino fino a mezzanotte con un'ora di palestra di pausa. E poi dice: faccio beneficenza, sono cattolico, credo nel dovere morale di restituire qualcosa alla società. Vabbè, ma poi parla delle questioni. Intanto la società alle Cayman. In Inghilterra avere una holding alle Cayman è come per una società italiana avere una holding in un paese dell'Unione Europea. Il fisco la considera 100% inglese, quindi pago le tasse su tutti i profitti globali fatti in qualsiasi posto. Ma comunque la chiudo lo stesso, così evitiamo strumentalizzazioni. Ed è vero, ho fatto richiesta di iscrivermi al PD di Londra, continua Davide Serra. Non ho mai detto alla Leopolda che sono contro il diritto di sciopero, ho detto che gli scioperi del settore pubblico andrebbero coordinati per non creare disagi alla gente e non spaventare gli investitori. E poi dice di Renzi: non siamo amici, non facciamo mai vacanze insieme, un giorno ho letto un suo libro, gli ho scritto una mail, ci siamo visti a Firenze per una pizza ed allora gli mando qualche consiglio come faccio con altri capi di governo e con altri ministri. Mi piace però Renzi perché è il primo politico italiano che parla in modo che comprendo, condividiamo gli stessi valori, cattolico, boy scout, tanti figli, una visione moderna e progressista per rimettere in moto l'Italia. E dico dell'Italia, sono stato pessimista in passato, per la prima volta ho fiducia nel cambiamento. Questo è Davide Serra, intervistato da Repubblica. Il titolo dell'intervista di Enrico Franceschini è: non sono il lupo della City e chiudo le società alle Cayman e mi iscrivo al Partito Democratico. A proposito, le province... Siamo nella 79esima settimana decisiva. Vabbè. Il Sole 24 Ore oggi dà un numero: 12.000. Che cosa sono 12.000? Sono i possibili esuberi di personale con le nuove province. Davide Colombo ne dà dettaglio alla pagina 9. Sono i dipendenti non assegnati alle funzioni rimaste con le nuove province. Si avrà una ricaduta sul personale di questi enti, circa, secondo alcune ipotesi tecniche, 12.000-13.000 dipendenti sono da trasferire in altre amministrazioni utilizzando anche, ma non solo, le procedure di mobilità. 12.000, forse 13.000 esuberi. Sono invece meno, ma sono tutti gli esuberi al partito della Lega. Così racconta oggi in una pagina Il Giornale con Paolo Bracalini. La Lega finisce i soldi, è una notizia che già era stata diffusa la scorsa settimana, a casa 71 dipendenti. La lettera spedita al Ministero del Lavoro per chiedere la cassa integrazione collettiva viene pubblicata oggi dal Giornale. L'oggetto è riduzione e messa in mobilità del personale, i conti sono in rosso, siamo costretti a tagli drastici, rischia la chiusura anche il quotidiano La Padania, della nostra amica Aurora Lussana, direttrice, a fine anno. 71 dipendenti, tutti in esubero, gli autisti di Bossi e tutti i dipendenti della Lega. Così racconta il Giornale: 71 dipendenti, tutti a casa entro fine anno. Entro fine novembre invece, lo sapete, lo abbiamo detto ieri, Emilio Fede deve lasciare casa, è stato cacciato da Mediaset dopo il tentativo di ricatto, così dice la procura, di aver utilizzato foto manipolate con fotomontaggi a sfondo pornografico. Lui dice: ma che ricatto, io ho ricevuto queste foto e le volevo dare al direttore generale dell'informazione Crippa, l'ho chiamato dicendo così mi ringrazierai, e questo viene invece di essere dalla sua parte... è stato interpretato come un ricatto. Comunque sta di fatto che Mediaset l'ha cacciato. E lui, sul Fatto Quotidiano, Emilio Fede, intervistato a pagina 5, dice: mi hanno cacciato come uno dei peggiori animali, messo alla porta, infamato, ho poche settimane per lasciare casa, mi hanno tolto tutto, ma non mi ruberanno la dignità, devo liberare l'alloggio entro il 30 novembre, che farò? Avvocati come se piovesse, anche perché avevo un contratto di consulenza con scadenza a giugno e un preavviso di 6 mesi, quindi non vanno lontano. Così Emilio Fede, che minaccia dunque guerra all'azienda in cui ha vissuto e proliferato una vita, dicendo: lui, ero direttore, avevo tutto, casa, macchine, segreterie, tutto quello che uno neanche immagina, e perché avrei dovuto ricattare? Ma chi? Che cosa? Beh, ma avvisi Berlusconi, chiede il Fatto Quotidiano. Non voglio coinvolgerlo in alcun modo, non posso cercarlo. Ah, come finisce questa parabola di Emilio Fede. Appassionante, quasi come il dibattito sul gelato della Madia. Ragazzi, succede che ieri Chi di Alfonso Signorini ha pubblicato delle foto rubate alla Madia che mangia il gelato. Ora, evidentemente l'effetto è quello, sembra una fellazio, diciamolo chiaramente, ma come se prendessero tutti coloro che mangiano il gelato e facessero una fotografia. E allora, apriti cielo, dibattitone, l'ordine dei giornalisti che si mette in moto, bufera su Chi per l'offesa alla Madia, ripresa in una macchina e quindi una foto rubata col titolo «Ci sa fare col gelato». Alfonso Signorini che si difende dicendo Francesca Pascale l'avete presa in giro per anni perché mangiava il calippo in una vecchia clip televisiva su Telecafone. E Concita Sannino di Repubblica che intervista Francesca Pascale, mezza pagina di intervista, è un fatto sgradevole, ma anche lei dice ma quanti si ricordano che anch'io sono stata etichettata come la signorina del calippo, allora io ero giovane, sono stati attacchi a me, alla Carfagna, attacchi vergognosi. E nessuno si inteneriva come avviene ora con la Madia, ma comunque Francesca Pascale dice comunque, per essere chiari, quell'attacco allusivo non lo condivido, Signorini fa tante cose intelligenti ma quella no, se ha offeso una donna quella pagina offende anche me, sono stata chiara? Così Francesca Pascale, dibattitoni sul Corriere, Madia, il gelato e quel volgare doppio senso, il giornale una pagina, se la ministra è di sinistra i paparazzi son vietati, Libero tutti scatenati contro Signorini per la Madia col gelato in bocca. Gramellini che dedica il buongiorno di oggi sulla stampa proprio a questo, signore e signorini, e Gramellini che dice ma come Signorini non capisce la differenza con la Pascale? Ma la Pascale, che ancora non era assurda agli altari di Arcore, eternata nell'atto di succhiare un calippo, lei armeggiava col ghiacciolo a favore di telecamera, riferendosi volutamente a quella roba lì. Invece la Madia lecca un cono da due gusti senza alcuna volontà di lanciare messaggi alla nazione. Signorini, si rassegni! La ricreazione è finita e ci tocca rientrare nelle classi diroccate, allagate, a studiare qualche modo per venirne fuori. Insomma, dibattitone di pagine e pagine. Ero tentatissimo di metterle nella carta costa, ma invece no, ci sarà qualcos'altro. Ma invece finisce sul premio Mani sul volante, l'articolo che ci fa più di questa giornata, si torna sulla vicenda Bonanni e la pensione alla CISL, pagina 6 del Fatto, Salvatore Cannavò, super stipendio, la CISL allontana Bonanni, la neo segretaria della CISL Furlan dice va fatta chiarezza sulla pensione di Bonanni, ma come è fatta chiarezza? Cioè, se non lo sanno loro, va fatta chiarezza. E Bonanni dice mi dimetto dall'ultimo incarico detenuto nella CISL e con lo scopo di mettere fine alle polemiche sulla pensione, evitare che le notizie uscite abbiano ripercussioni negative sull'organizzazione. Così Bonanni si dimette dal centro studi di Fiesole della CISL dopo lo scandalo per la retribuzione. E allora mani sul volante, perché la pensione di Bonanni 336.000 euro, la retribuzione, l'ultima retribuzione, 336.000 euro, però per i dipendenti pubblici voleva il tetto da 240.000, dopo debosciati siamo noi, meno graffe! Alessandro Milan, il barone di Munchausen, che vola sull'informazione! Addirittura, ragazzi, qua ci stiamo montando la testa, ma bene così, dai, siamo una squadra fortissimi, forza, forza! Allora, la notizia politica italiana del giorno è che ieri si sono visti per la sesta volta, forse settima, sesta, Silvio Berlusconi e Matteo Renzi, il patto del Nazareno per rilanciare il tema della legge elettorale. Stavolta però, come racconta Repubblica, niente battute, niente barzellette, clima meno disteso e Renzi che mette un po' le strette Berlusconi. Berlusconi invece prende tempo. Si può riassumere così. Renzi vuol fare la legge elettorale entro la fine dell'anno calendario. Vabbè, insomma, ci siamo nella 79esima settimana decisiva e vabbè. Comunque vuole farla subito. Berlusconi invece ha paura che con quest'arma in mano Renzi voglia andare alle elezioni a marzo. E quindi il titolo del Sole 24 Ore è questo: Italicum, Berlusconi prende tempo, Renzi spinge per un sì entro dicembre, ma Berlusconi pone la questione della sua candidabilità. E poi teme che Renzi abbia l'arma per andare a votare a quel punto. Ecco che Repubblica racconta, pagina 2-3, Francesco Bei e Carmelo Lopapa: stavolta è stato diverso, poche battute, niente Milan, una schiettezza che rasenta la brutalità da parte di Renzi, che dice: Presidente Berlusconi, è inutile perdere tempo, mi devi dire se ci stai o no, e me lo devi dire subito. Altrimenti mi regolo. Io la legge elettorale preferirei farla con voi, ma qualcun altro lo trovo. La prossima settimana partiamo comunque. Ecco, questo è il clima del sesto incontro a Palazzo Chigi. Da una parte Berlusconi, Letta e Verdini. Dall'altra parte Renzi, Luca Lotti e Lorenzo Guerini. I toni però diversi dai precedenti. I titoli infatti dei giornali sono sempre quelli: Renzi vede Berlusconi, duello sui tempi, pagina 10 del Corriere della Sera, e il sospetto, il retroscena di Tommaso Labate sul Corriere, sempre a pagina 11 di Berlusconi. Il sospetto è questo: Berlusconi dice ai suoi, oggi ho avuto la sensazione che Renzi voglia andare a votare a marzo, ne sono ormai quasi certo. Ecco allora il timore. Anche La Stampa titola così: Berlusconi prende tempo sull'Italicum, pagina 6. Per Libero addirittura è una litigata Berlusconi-Renzi, Italicum a rischio, così Salvatore Dama. Berlusconi si concede in una lunga intervista al Giorno, è un'intervista in esclusiva, pagina 2-3 di Andrea Cangini, e parla un po' tutto campo. Intanto sul patto del Nazareno dice: conta il rapporto instaurato con Renzi, viviamo in un momento difficile, sono sempre stato ispirato da un sano patriottismo, la patria oggi è minacciata da una crisi economica, con Renzi siamo allo stallo, chiede Andrea Cangini, oppure ci vuole un sistema elettorale e si fa bipartitico, sarebbe una buona cosa, ma la legge elettorale è fatta di tanti capitoli, ci stiamo lavorando, non credo ci siano problemi insolubili, dice Berlusconi, ma spero che nessuno insista su forzature. Insomma, un po' conferma il voler prendere tempo. Poi Berlusconi dà i suoi sferzanti giudizi politici sugli altri del centrodestra. Per esempio Salvini, al netto della propaganda, deve ancora dimostrare di saper fare qualcosa. Alfano si chiuderà nella irrilevanza. Una cosa potrebbe farla, Alfano. Alla domanda tornerà ad allearsi, mi domando quale futuro si prefigurino i componenti del nuovo centrodestra. Se decideranno di far parte della sinistra saranno abbandonati dai loro elettori, se resteranno al centro, soli e ininfluenti, nessuno troverà opportuno votarli. Mi sembra che debbano darsi una mossa. E poi ancora parla del matrimonio omosessuali, nessun cambiamento di idea, sullo Ius Soli. E ancora Berlusconi dice: io non ho mai cambiato idea, e quindi se mi chiede se è stata Francesca Pascale a farmi cambiare idea, la domanda è mal posta. Ma scusi, Fitto dice che è lei, Francesca Pascale, a dare la linea al partito. Sentite la risposta di Berlusconi: non credo che Raffaele si presti a certe stupidaggini, nessuno tra i miei potrebbe mai immaginare una cosa del genere. Così Berlusconi. Insomma, sta di fatto che questo patto del Nazareno rischia di finire nella palude, questo è il dato di fatto. Per quel che riguarda la politica, tra Il Messaggero e Libero viene rilanciata una vicenda che riguarda un parlamentare ex assessore della giunta Marrazzo alla regione Lazio. È l'assessore, ex assessore oggi parlamentare, Di Stefano, Marco Di Stefano, è Partito Democratico. Ieri Il Messaggero ha fatto sapere che è accusato di avere preso una tangente per truffare l'ente di previdenza dei medici. È la ex moglie che lo accusa: mio marito ha incassato una tangente da 1.800.000 euro in un affare che avrebbe consentito di vendere a prezzo maggiorato due palazzi dell'ente di previdenza dei medici. E vabbè, questa è l'inchiesta che vede appunto indagato il parlamentare Di Stefano. Ma la cosa interessante, secondo Libero, è che questo parlamentare, che era intercettato e non lo sapeva, ha detto alcune frasi che Libero mette in prima pagina. Il titolo di prima pagina: truccate le primarie del PD. Questo è il titolo di prima pagina. L'intercettazione del parlamentare Di Stefano che è indagato per corruzione. A un certo punto sbotta al telefono così: ho fatto le primarie con gli imbrogli. No, non è che so imbrogli finti, imbrogli ripresi. Non è tollerabile questa storia. Se imbarchiamo tutti, ricominciamo dai fondi del gruppo regionale. Io sono Sansone contro tutti i filistei, casco io, ma cascano pure gli altri. Insomma, Libero mette questa intercettazione: che maiali, truccate le primarie del PD, tiro dentro tutto il partito. È uno sfogo del deputato renziano indagato per corruzione, oppure, si chiede Libero, c'è del marcio nelle primarie del PD, in questo caso a Roma o nel Lazio? Seguiranno altre puntate. Saluto intanto Mauro Meazza. Buongiorno Mauro, come stai? Buongiorno, buongiorno. Vedo che siamo tornati all'annuncio del mio intervento dopo questioni giudiziarie. Bene, è un ritorno alla tradizione in un certo senso, questo mi fa molto piacere, caro Alessandro. No, volevo dirti invece, guarda, facciamo la svelta perché c'è un sacco di cose da leggere sul Sole 24 Ore e non posso distrarmi. Allora, a parte che oggi è giornata importante per la Banca Centrale Europea, anche se non dovrebbero esserci decisioni forti, ma insomma, bisogna valutare come va questo sistema di sostegno all'economia con le varie aste di liquidità che sono state appena avviate. Però poi c'è tutta una serie di cose importanti. Innanzitutto le pensioni, che come avrei visto già dalla prima pagina, quest'anno verranno rivalutate in negativo, cioè verranno svalutate, detto proprio brutalmente, di poco, uno zero virgola, però purtroppo se c'è la recessione il meccanismo prevede che il montante dell'accumulato per la pensione diminuisca un po', e questo è quello che potrebbe succedere entro fine anno. Dico, uso il potrebbe perché spero che succeda qualcosa che lo scongiuri, infatti, però insomma tutti i particolari forniti da Davide Colombo nelle primissime pagine, il calo del PIL abbatte le future pensioni. E poi c'è il fisco che verrà, caro mio. Intanto ti volevo dire che siamo a 142 giorni dalla completa attuazione della riforma fiscale, quindi teniamo sempre conto di questo countdown, però intanto si ragiona sulla local tax. Bisognerebbe fargli un bel nome, però, perché a me local, non so, LOTA, LT, TALO, non so, ecco, la tassa tal dei talo, non ne ho idea, ecco, però intanto Gianni Trovati ha le idee molto chiare, ce lo spiega sul 24 ore come dovrebbe inglobare l'IMU, la TASI, ma anche l'addizionale IRPEF comunale, caro Alessandro. La famosa tassa unica, chissà se ci arriveremo. No, questo qui, guarda, è un nome che porta malissimo, tutte le volte che l'hanno detto poi diventa un pasticcio. Io la chiamerei Talo, così, ma lanciamo pure anche un concorso tra gli contest, ascoltatori, se qualcuno, esatto, un tax contest tra gli Come ascoltatori. Come chiamereste la tassa unica che non si chiama tassa unica? Che non sarà, non diciamo tassa unica però, perché guarda che non porta bene. Poi sulle province ci sono degli esuberi, accidenti. Da gennaio qui si crea un problema anche per il personale. Senti, domani daremo con il Sole 24 Ore How to Spend It, ti raccomando di leggerlo. Per i miei due eurini, ovvio. Esatto, almeno questi due eurini li muovi perché non se ne può più. E poi guarda che stanno pensando di fare qualche modifichina alle norme sul POS, quello del pagamento col bancomat, oltre i 30 euro. Si parla di incentivi da una parte, ma anche di sanzioni questa volta. Tutti i particolari indovino un po' dove li ho letti. Questo sì, su norme tributarie. Ma molto bravo. Bene, allora sono contento che stamattina ci possiamo salutare con questa tua perspicacia. Alessandro Milan, la rassegna stampa, ti fa più incazzare. Vabbè. oppure vi fa essere più consapevoli? Vi piace questa cosa da vecchio trombone, caro ascoltatore. Va bene, intanto c'è il maltempo che colpisce soprattutto Roma. Avete sentito anche il giornale radio, il prefetto ha deciso scuole chiuse e Marino che dice se proprio non dovete avete possibilità di stare a casa, state, se proprio non dovete necessariamente uscire di casa, non fatelo oggi, cari cittadini di Roma. Mentre a Carrara la situazione è anche molto molto complicata, con le strade di Carrara completamente invase dall'acqua. Tra l'altro il Corriere della Sera fa l'articolo più interessante a mio modo di vedere, con Marco Imarisio a pagina 9: lo scandalo del torrente Carrione fuori dagli argini due volte l'anno. E tra l'altro è un torrente, la causa di tutti i mali è un fiumiciattolo che con un paio di giorni soleggiati riprenderà presto il suo aspetto di rigagnolo, con un alveo così secco che d'estate i bambini del centro storico ci giocano dentro a pallone. Il Carrione non è il Mississippi, non è il Po, ma nei suoi 20 chilometri scarsi di lunghezza scorrono errori, sviste, omissioni, peccati. Il quesito proposto richiede se l'evento alluvionale su Carrara da parte del suo torrente sia stato condizionato nell'entità dello straripamento e dei danni da opere dell'uomo. La risposta, alla luce delle indagini, non può che essere affermativa. Questo succedeva nel 2003, 27 settembre, l'alluvione peggiore, il fiumetto, come lo chiamano qui, saltò ovunque in città. Eppure, nonostante sia piccolo, sia corto, sia pare, dovrebbe essere innocuo, due volte l'anno il Corriere della Sera, anche per l'incuria umana, tracima e Carrara si ritrova sott'acqua. A proposito di fisco amico, prima si parlava, attenzione a quello che scrive Libero. La notizia viene messa in prima pagina, riguarda molte imprese, piccole, medie, grandi. Il titolo è questo: lettere minatorie dal fisco per recuperare 6 miliardi. Franco Bechis racconta che le lettere sono pronte, devono essere solo spedite dall'Agenzia delle Entrate. Ma succederà. Nelle prossime settimane 2.000 missive di avvertimento alle grandi imprese italiane, alle medie imprese che negli anni scorsi risultavano ricomprese nella categoria superiore arriveranno e chi le riceverà si troverà con tono molto amicale, una sorta di avviso di garanzia fiscale. L'Agenzia delle Entrate ipotizza una serie di possibili violazioni compiute alla normativa fiscale ed è pronta ad avviare le procedure classiche di accertamento con tutto quello che ne consegue, rispondendo però in tempi brevi alla lettera e dichiarandosi disposto a regolarizzare le possibili mancanze fiscali individuate. Ecco, allora si lascia al contribuente la possibilità di evitare guai ben conosciuti. Insomma, secondo Libero, il risultato è che molti pagheranno per evitare guai peggiori e che queste lettere che verranno poste come l'ennesima iniziativa da fisco amico in realtà sono dipinte da Libero come le classiche lettere minatorie, come dire: se non hai regolarizzato qualcosa noi stiamo per partire con gli accertamenti, ma hai tempo per regolarizzare. E chissà se davvero scatterà questo meccanismo per cui qualcuno, pur di non avere guai, pur di non avere menate, pagherà. Ora, ovviamente, molti giornali si concentrano a quello che è successo in America. Elezioni di midterm, in brevissima analisi, succede che Obama ora non ha la maggioranza democratica né la Camera né il Senato. Obama perde il Senato, 2 anni da solo, questa è l'analisi di Marco Valsani a pagina 2 del Sole 24 Ore. I mercati peraltro salutano la vittoria dei repubblicani, saranno i 2 anni della cosiddetta anatra zoppa, così viene definito il presidente che non ha appunto la maggioranza parlamentare. I repubblicani, racconta Valsani, hanno vinto alle urne, ora scatta l'ora del confronto per un'agenda di compromesso e governo, obiettivo di un dialogo che eviti scontri tra un'opposizione che domina il Congresso e la Casa Bianca democratica di Obama. È ora di mettersi al lavoro, dice Obama, il paese lo chiede, non può aspettare, sono aperto alle idee repubblicane e credo esistano tematiche comuni, dalle infrastrutture alle tasse all'export. Sta di fatto che però bisognerà capire che succederà nei prossimi 2 anni per Obama prima della fine della sua esperienza presidenziale. Sapete che 2 mandati in America e poi fuori di bal. Questo è in milanese, vuol dire insomma avete capito. Comunque, tornando all'Italia, ci saranno ovviamente, se volete, molte analisi su quello che è successo in America, le trovate un po' ovunque sui giornali, con anche interviste. Il Papa invece ha parlato di divorzi, nel senso, o meglio, di annullamento di matrimoni attraverso la Sacra Rota, e ha detto, questa è la sintesi del Corriere della Sera, la Sacra Rota deve essere gratuita. Ora, magari proprio così deve essere gratuita, non l'ha detto, come scrive Gianguido Vecchi, però ha detto il Papa, bisogna stare molto attenti che le procedure non siano entro la cornice degli affari. Io ho dovuto congedare dal tribunale una persona che diceva $10,000 e ti faccio due procedimenti, civile ed ecclesiastico. Per favore, questo no, dice il Papa. Al sinodo sulla famiglia, ricorda, alcune proposte hanno parlato di gratuità. Si deve vedere, quindi apre alla gratuità. Comunque, dice, quando l'interesse spirituale è attaccato a quello economico, questo non è di Dio. Così il Papa, la Madre Chiesa ha tanta generosità per poter fare giustizia gratuitamente, come gratuitamente siamo stati giustificati da Gesù Cristo. Questo punto è importante, staccate le due cose, cioè la spiritualità e gli affari. Così parlò il Papa. Mentre siamo allo sport, la Gazzetta dello Sport ha questo titolo, cari amici di Roma, insomma, Roma ci vuole più birra, il Bayern Monaco vince 2-0, dunque dopo aver perso l'andata anche in maniera clamorosa, 2-0 anche a Monaco, però la sconfitta in casa clamorosa del Manchester City, che ha perso in casa col CSKA di Mosca, favorisce la Roma in vista della qualificazione. Dunque nulla è perduto, ma siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa, cioè l'articolo più inutile scovato sui giornali, a mio insindacabile giudizio. Ricordate, oggi vince con un'intera pagina il giornale. Andrea Cuomo si concentra sul vino, e vabbè, dite voi, e che male c'è concentrarsi sul vino? Il vino dei VIP, le bottiglie della celebrità, scrive Andrea Cuomo, scegliere un vino può comportare dilemmi. Albano o Sting? D'Alema o Berlusconi? Moser o Trulli? Ferragamo o Cavalli? Qual è il vino più trendy? Delle vigne dei famosi? Fanno ottimo vino cantanti, stilisti, sportivi. Quale vino comprerete oggi? Ma chi se ne frega! 24 mattino. Sono le 8 e 18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, come sapete, l'Europa ci guarda, l'Europa ci controlla, l'Europa ci scruta, scruta i nostri conti economici, il nostro deficit, il nostro debito pubblico, la nostra legge di stabilità, ma non solo, non solo. Ieri sui giornali è stata diffusa questa notizia: l'Europa ci controlla e rischiamo una procedura di infrazione, per la verità una sorta di ammonimento, un cartellino giallo, per usare una metafora calcistica, dunque un'ammonizione già arrivata. Perché? Perché trattiamo non adeguatamente, trattiamo male i Rom. La lettera è stata consegnata, per la verità, qualche tempo fa, ma si è avuto notizia nei giorni scorsi, a Palazzo Chigi, dunque al governo, dall'Unione Europea, e recita così: richiesta di informazioni aggiuntive riguardo a questioni di alloggio dei Rom in Italia ai fini della direttiva numero, vabbè, insomma, una direttiva sull'uguaglianza razziale. A fare da detonatore della vicenda è un campo per soli Rom in località La Barbuta a Roma. Tipi di alloggio, si legge nella missiva spedita dall'Europa, in un sito molto remoto, non accessibile, dotato di recinti e impianti di sorveglianza. Insomma, questo tipo di campo limita gravemente i diritti fondamentali degli interessati, isolandoli completamente dal mondo circostante, privandoli di adeguate possibilità di occupazione e istruzione. Vogliamo parlare di questo e intanto saluto il presidente dell'associazione 21 luglio, che è l'associazione che in qualche modo ha portato fuori e ha portato alla ribalta questa vicenda. È Carlo Stasolla, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. L'associazione si occupa proprio dell'integrazione delle comunità rome e sinti in Italia. Saluto anche Lucia Borgonzoni, che è una consigliera comunale a Bologna della Lega. Buongiorno e benvenuta. Ci sente? Buongiorno. Ecco, suo malgrado diventata abbastanza famosa in questi giorni perché è protagonista di un video che è un video virale che è girato in rete di una sua visita in un campo rom che non è finita benissimo, diciamo così, ma tra poco cercheremo di capire. Stasolla, intanto siete voi che avete portato avanti questa denuncia in Europa? Sì, la nostra organizzazione è un'associazione composta da Rom e non Rom, che si occupa dei diritti umani, che si interfaccia spesso con l'Europa, che sta lavorando nel produrre documentazione sulla condizione di vita, soprattutto dal punto di vista abitativo, delle comunità Rom e Sinti nel nostro paese. E cosa avete fatto? Cioè, voi avete segnalato all'Europa che c'è qualcosa che non va, che siamo... cosa facciamo? Beh, questo già, diciamo, è stato segnalato ormai da anni. L'Italia è definita in Europa il paese dei campi. L'unico paese in Europa, cioè, che ha deciso che i Rom debbano vivere nei cosiddetti campi nomadi istituzionali. Sono realtà tipiche italiane. L'Europa già in passato ha espresso raccomandazioni e condanne nei confronti del nostro paese, proprio per il sistema campi che da circa 20 anni si è prodotto nel nostro paese. Come dovrebbe essere invece un'integrazione corretta, secondo lei? Che modello europeo dovremmo... Per esempio il modello spagnolo, dove vivono, in Spagna ci sono 800.000 Rom che non vivono certamente nei campi, in Italia invece ce ne sono 40.000 che vivono nei campi e sono, diciamo, uno spaccato poi della realtà da Rom, non possiamo generalizzare, ricordiamo che 4/5 dei Rom nel nostro paese vivono in abitazioni convenzionali e svolgono un lavoro regolare, quindi i Rom in Italia non vivono tutti nei campi, una minima parte vive nei campi, spesso campi imposti dalle istituzioni, quindi c'è un sistema campi che è andato nascendo 20 anni fa nel nostro paese, con tutto un suo indotto di associazioni che lavorano poi intorno e che in realtà produce discriminazione e segregazione. Ma lei auspica addirittura, no, non auspica le infrazioni, nel senso che immagino speri che l'Italia faccia le cose che l'Europa ci dice di fare, ma capisce che, voglio dire, leggere sui giornali che rischiamo anche un'infrazione, quindi vuol dire tanti bei soldini. Ma chiaramente come cittadino italiano non auspico e spero che questa procedura di infrazione non vada avanti. C'è però una lesione costante e sistematica da parte delle istituzioni sui diritti umani, sui diritti fondamentali, e quindi, diciamo, l'Italia con questo cartellino giallo ha ancora tempo per tornare indietro, anche se, come lei ha citato, il caso della Barbuta e quindi tutta la storia che si sta costruendo sulla Barbuta, diciamo, non incoraggia e non sembra indicare che l'Italia abbia capito e recepito questo cartellino giallo. Senta Stasolla, i diritti vanno bene e i doveri, a doveri come la mettiamo? Sa perché lei porta avanti questa è presidente di questa società. Lei sa che quando in Italia si parla di Rom molti li associano, e devo dire in alcuni casi magari non sbagliano neanche, no? A pratiche illegali, a furti, a un modo di vita. È indubbio che noi siamo i primi a dire che i campi vanno chiusi perché sono luoghi non solo di violazione dei diritti, ma luoghi in cui si infiltra e è facile infiltrarsi la criminalità, come avviene in qualsiasi ghetto, soprattutto se costruito su base etnica. Ciò che avviene nei campi, ovvero in questi ghetti etnici, è quello che avviene per esempio nelle banlieue parigine o nelle baraccopoli keniote o nelle favelas brasiliane, laddove delle comunità sono emarginate, segregate, è chiaro che c'è e nasce la criminalità che va in tutti i modi condannata. Ma è chiaro, e questa non è la soluzione, però mi perdoni, insisto sulla questione dei diritti, cioè nel senso, se uno, se lei dice 4/5 dei Rom lavorano, ma non possono comprarsi delle case? 4/5 dei Rom lavorano e vivono in case, Cioè, perché il problema c'è sulla questione Rom? Non possono, voglio dire... Ma la questione Rom, anzitutto in Italia, è fortemente amplificata. Sì. Come ho detto, ci sono 40.000 Rom che vivono nei campi in Italia, ne parlano tutti. Degli 800.000 Rom che vivono tranquillamente normalmente in Spagna non ne parla nessuno, questo perché fa più clamore il problema che poi la soluzione trovata. In realtà ci sono interessi politici molto forti ed economici che si muovono attorno ai campi, quindi ci sono amministrazioni. C'è un discorso di consenso politico, c'è un discorso di interessi politici. Lei pensi che solamente nella città di Roma sono 24 milioni che l'amministrazione dà a 35 enti per la gestione, per gestione dei campi. Del sistema campi. Non lo so, intanto uno di questi campi è andato a visitarlo, Lucia Borgonzoni. Di quale campo si trattava? A Bologna, immagino, visto che lei è consigliere comunale leghista lì. Sì, è una delle tre aree sosta autorizzate del comune, dove sono presenti solamente sinti, non ci sono rom, sono tutti di etnia italiana. Una cosa che vorrei dire al presidente dell'associazione 21 luglio, visto che sono stata redarguita da una sua lettera circa un anno fa, perché avevo parlato dei costi di queste aree sosta, delle bollette che paghiamo per questa area sosta, ora spero che mi mandi anche una lettera in cui condanna l'aggressione che ho subito. Ah, questo non la sapevo, cioè lei ha ricevuto una lettera un anno fa dall'associazione 21 luglio? Perché lei aveva denunciato dei costi sostenuti dal comune di Bologna su... Sì, perché faccio un esempio su tutte, l'anno scorso per l'area sosta, quella dove sono andata l'altro giorno, abbiamo speso di luce e acqua 134.000 euro e ci sono stati dati indietro 2.000 euro dai residenti dell'area. E l'associazione 21 luglio mi aveva scritto una lettera in cui diceva che ero ingiusto, fomentavo l'odio. Spero che mi arrivi una lettera uguale in cui condanna le persone dell'area sosta che mi hanno aggredito l'altro giorno. Allora, il video lo potete trovare abbastanza tranquillamente, un video cliccatissimo che gira in rete, e potete vedere Lucia Borgonzoni che è andata insieme ad altre persone appunto a visitare quest'area sosta, e come è finita Borgonzoni, che appena ha iniziato ha tentato insomma di parlare, si è presa uno schiaffone in faccia da una donna che era lì nel campo, nell'area sosta, spinto, come dire, vai via. Ma perché? Cioè, perché è leghista e quindi viene associata, come dire, la Lega fomenta l'odio, la Lega, perché l'hanno trattata così? Appena... È accaduto mentre stavo uscendo, avevo già fatto tutto il giro dell'area sosta, una delle donne del campo mi ha riconosciuto in quanto consigliera comunale della Lega e io ho portato avanti la battaglia sulla questione delle aree sosta, perché per me la maggior parte della gente che sta lì dentro può benissimo avere una casa e pagarsela, non a caso anche ieri sono tornata e molti di questi dicono che hanno un lavoro, guadagnano 1.000-1.500 euro, mi hanno chiesto a me come si fa a mantenere un appartamento con queste cifre, io gli ho anche risposto che gli operai molti ne guadagnano anche meno. E all'interno di quest'area le persone tranquillamente dicono che vogliono un lavoro dato dal comune e che vogliono una casa data dal comune, cascine, loro vorrebbero delle cascine. Vabbè, il lavoro adesso è, però le case possono iscriversi come altri, secondo lei, alle graduatorie per ottenere la casa? Infatti, certo, sono italiani poi, per cui possono è farlo. Una cosa. Vabbè, ma come è finita? Cioè, una di quelle famiglie è dentro una casa popolare perché era una donna sola con tre figlie. Vabbè, poi una donna ha perso così un po' la pazienza, l'ha riconosciuta e l'ha presa a schiaffi. Questo è anche un calcio, credo che sia volato. Stasolla, lei come giudica questo? L'ha visto anche lei quel video lì? Sì, ho visto, chiaramente noi condanniamo il gesto della donna rom, e qui comunque la colpa è individuale, quindi va condannato chiaramente l'episodio, caso, ma questo è logico, implicito, e non serve certamente una lettera per esprimere solidarietà alla consigliera. Noi chiaramente condanniamo, e lo dico chiaramente, ogni illegalità di qualsiasi tipo, sia istituzionale che personale, e la consigliera ha anche tutti gli strumenti giuridici per potersi poi difendere, penso abbia anche attivato qualche azione a sua tutela. Vabbè, insomma, essere presa a schiaffoni non è piacevole, però le chiedo, Borgonzoni, che effetto le fa sentire e leggere che l'Europa, voi leghisti siete poco teneri con l'Europa e si sa, ora rischiamo anche questa procedura di infrazione, che poi non ho capito, magari cercheremo di quantificare anche economicamente quanto ci potrebbe costare, spero che non arrivi mai, ovviamente. Borgonzoni, che effetto le fa? Ma l'Europa ci bacchetta sempre e diciamo che ci aiuta veramente poco. Per me è una cosa allucinante che noi possiamo avere un'infrazione con tutti i soldi che comunque spendiamo per le aree sosta, e in aree sosta dove comunque la maggior parte della gente che è all'interno, se uno va, io sono andata in tutte queste qua, sia quelle autorizzate che non autorizzate, si sente sempre la gente parlare dei loro diritti, come diceva anche lei prima, e poco dei doveri. Poco di doveri, però se spendete, lei ha fatto il caso di Bologna, 134.000 euro, tutti questi soldi, non conviene una soluzione diversa, di diverso tipo, che faccia risparmiare soldi alle amministrazioni comunali, allo Stato italiano, e non segreghi, come ci ha detto Stasolla, come avviene solo in Italia, queste persone? Ma io io non riesco a comprendere una cosa: le persone di questa resosta Bologna sono italiane come siamo italiani tutti noi, l'unica differenza è che sono di etnia sinti. E perché loro dovrebbero avere una via speciale per avere una casa, per avere un lavoro rispetto a tutti gli altri italiani? Perché secondo lei questo chiedono, secondo lei? Questo vogliono, una via agevolata, speciale? Questo chiedono, certo, perché loro chiedono una casa. Loro, ad esempio, la risposta dove sono andata io è anni che la vogliono chiudere. Loro, la maggior parte della gente che c'è dentro, dice: ce ne andiamo, però ci date delle cascine, magari le ristrutturiamo noi. Ma io ho detto: va bene il recupero delle cascine abbandonate sul territorio di Bologna, però si fanno dei bandi, partecipano tutti gli italiani che vogliono, e chi ovviamente ha più bisogno entrerà. Questo è interessante, vorrei ripartire qui dopo la pubblicità, ma le chiedo intanto, Stasol dell'associazione 21 luglio, perché questo diritto particolare dovrebbe essere posto un'attenzione particolare per le tigre? Assolutamente no, noi in no. quello che ha detto la consigliera siamo d'accordo, chi ha le risorse deve uscire dai campi e trovare una soluzione autonoma, chi non ce l'ha va sostenuto con progetti di inclusione come qualsiasi altro cittadino, chi non ha le risorse, per chi non ha le risorse andrebbero riconvertiti i soldi spesi per la discriminazione e per la segregazione in percorsi di inclusione che riguardino non solo i cittadini rom, ma tutti i cittadini in disagio abitativo. Ma che segregazione è? Cioè lei dice che vengono fatte le amministrazioni dei campi isolati per tenerli là in delle specie di ghetti moderni? Questo riguarda alcune città, nello specifico la città di Roma e anche la città di Milano, diverse sì. quindi dalla realtà di Bologna che ha incontrato la consigliera. A Roma noi abbiamo dei cosiddetti villaggi attrezzati, posti anche a 20 chilometri dalla città, recintati, videosorvegliati, dove vivono anche più di 1000 persone concentrate. Perché l'idea che vivano come tutti gli italiani, uno qua, uno in un condominio, uno in un altro, uno in una casa, nella in una villetta. Nella città di Roma questa idea non è presente, quindi c'è proprio no, una... No, voglio una dire, ma da parte anche loro, cioè che vivano nel contesto... Ma assolutamente, ci sono in giro per l'Italia tante persone rom che vivono in condomini anonimi e mescolati totalmente con altri cittadini. Cioè, quello che non ho capito, la questione, è perché i campi esistano solo per i rom e i sinti e non per altre etnie? Beh, perché storicamente, a partire dagli anni Ottanta, ci sono state delle leggi regionali che in nome di un presunto nomadismo, che in realtà non esiste, sì. Sono stati costruiti questi luoghi proprio per tutelare una cultura definita nomade. Ecco, ripartiamo da qui dopo la pubblicità. Se volete intervenire 800 24 00 24, l'Europa rischia di rischia. L'Europa potrebbe sanzionarci per la discriminazione da parte nostra nei confronti dei Rom. 24 mattino. Allora, siamo qui a parlare della infrazione che l'Unione Europea minaccia nei confronti dell'Italia per come si trattano i Rom. C'è da dire che su Twitter Gianfranco Sironi, Francesco Gorreri mi scrivono: ma ci deve essere un errore, forse, e lo giro a Lucia Borgonzoni, la prenda come una battuta, ci deve essere un errore, forse è un'infrazione per come i Rom trattano l'Italia. Vabbè, ma insomma, il dato di fatto è questo. Stiamo parlando con lei, con Carlo Stasolla. Stasolla, tra l'altro, le devo fare questa cosa da radio anni 50. Maria Rita Gallozzi le scrive su Twitter di salutarla perché eravate scout insieme a Frosinone. Siamo a questi livelli, ma insomma succede anche questo a Radio 24, Stasolla. Fatemi salutare anche Kasim Cizmic, che è presidente dell'associazione Unirsi per l'integrazione delle comunità rom e sinte in Italia. Buongiorno, è stato già nostro ospite, buongiorno e ben ritrovato Cizmic. Saluto anche gli ascoltatori, vorrei sentire Flavia da Roma, ci chiama. Intanto piove a Roma, Flavia? Sì, piove. Sta a casa oggi? No, io sto andando al lavoro, mia moglie è rimasta a casa perché le scuole sono chiuse, come immagino saprà. Sì, certo. Dica. Allora, io volevo parlare di un grandissimo campo nomadi di Roma, che è il campo nomadi di Via di Salone, sì. che è nato diversi anni fa come un campo che voleva essere un campo modello, anche voluto dall'amministrazione Veltroni, in cui erano presenti, diciamo, sedi dell'amministrazione comunale come riferimento, diciamo, come interfaccia per i Rom, in cui erano delle case diciamo, di dimensioni con dei servizi adeguati, piscine per bambini, tutto, nasceva come un campo che voleva diventare un campo campo modello, poi è stato progressivamente abbandonato dal comune. Su questo campo sono stati riversati nomadi da altre zone, per cui diciamo la densità di popolazione è aumentata a dismisura. Ovviamente la criminalità è entrata, e è successo che progressivamente gli effetti di questa diminuzione, diciamo così, di sorveglianza e di assistenza, diciamo, da parte del comune su tutti gli abitanti della zona si sono visti in modo catastrofico, perché sono cominciati a svilupparsi continuamente, con una frequenza praticamente quotidiana, degli incendi mostruosi. Questa è una delle cose che ha aiutato anche la criminalità e comportamenti non proprio adeguati. Sì, perché praticamente loro non sono stati educati nella gestione dei rifiuti, per cui ogni due giorni bruciano i rifiuti perché altrimenti sentono cattivi odori, e poi praticamente fanno riciclo di elettrodomestici, per cui continuamente bruciano. Sì, questo è un problema che è stato segnalato effettivamente più volte, Flavia, e lei ha ragione, anche la cronaca se ne è occupata e la ringrazio. Vorrei rimanere a Roma, sempre da Sante, pioverà anche da lei a Roma, immagino. Sante, è caduta la linea, allora Andrea Piacenza, da Andrea, buongiorno Andrea. Buongiorno. Dica. Buongiorno. Sì, dunque da noi c'è una comunità rom che ormai è storica lì da 30 anni, abbastanza integrata, con personaggi tipo Maradona, Sandokan, perché quelli sono i nomi che si danno. E da noi Maradona e Sandokan, sì, sono i due capi, poi c'è Benzo, ce ne sono tanti altri. Benzo. Ma, sono comunque abbastanza integrati, fanno piccoli lavoretti saltuari, grossi danni non ne fanno, però loro stessi ti raccontano, come diceva l'ospite lì, Stasolla, credo, arrivano i nostri amici, per chiamarli così, e quello che fanno i nostri amici noi non lo possiamo controllare. Certo, mi saluti Sandokan, Andrea, se lo incrocia, po' intimorisce, vero? Kasim Cizmic, fa bene l'Europa a sanzionarci o a minacciare sanzioni? Ma guarda, come sta essendo che ci sono questi un po' dalla criminalità o non so di qualcosa che stanno dicendo, una cosa che è normale, ma in questo paese dove stanno vivendo la popolazione rom, da non da 30 anni o da secoli che siamo insieme con voi in questo paese, e in qualche modo la nostra gente uguale come la vostra, perché siamo già un po' accapiti di vivere con voi, non tutti i zingari, ci sono anche tra di voi gagè, significa che anche uguale che ci sono criminali, banditi, non so, mafiosi, eccetera, eccetera, no? Ma non sono tutti uguali, ciascuno è persona, ha età e responsabilità sua, quello che sta facendo deve pagare, c'è la giustizia, c'è la legge uguale per tutti, ha scritto, non zingaro, ha scritto... Cioè ci sono brave cattive persone, come persone, tra gli italiani. Guarda, e noi come vogliamo da asserirci, significa ogni persona che vive in questo paese voleva integrarsi, ma la gente, ecco, vedi che il comune di Roma già mattina sta facendo un sgombero. Sì, stamattina? E altre cose ogni giorno, sì. Stamattina a Catalina 900 c'è una... E perché sarà un campo abusivo, non lo so. Non un campo abusivo, perché c'è gente che hanno occupato una casetta, e loro che cosa hanno fatto? Perché Occuparono una casetta, cioè voglio dire, mica era... No, una casa dove lui portava i figli a scuola, che porta, ecco, integrarsi. Ma in qualche modo vengano e mandano via discriminati, borgonzoni. Questo. Qui la questione è una questione che tutte le grandi città c'è, di problematica di rapporto con la comunità rom e sinte, e ha sentito, insomma, siamo un po'... Sì, no, l'ultimo intervento mi ha lasciato un attimo basita, magari ho capito male. Occupare, integrarsi, cioè è stata unita la questione occupare le case, così i bambini vanno a scuola e ci possiamo integrare, spero di aver capito male. No, credo di no. Anch'io gli ho chiesto, insomma, ma che vuol dire? Non è che occupare è un metodo lecito, occupare una casetta, Cismic, no. Casetta, e loro lo hanno mandato perché prima... No, ho capito, ma occupare una casetta... Scusi, Cismic, ma... come sono entrati dentro con i figli... perché voleva integrarsi. Ma come integrarsi? Voglio dire, allora aveva capito bene Borgonzoni. Per prendere un'altra... Ascolta, se io voglio integrarmi, no? Sì, così dicano a noi, alla popolazione rom, no? popolazione rondice non si sono integrati, non vogliono vivere bene, non vogliono lavorare, non vogliono, solo vogliono fare la criminalità. E in questo modo ci sono tantissimi giovani ragazzi e altre persone che vogliono integrarsi, e se vi dica c'è un comune di Roma da 10 anni che aspettano non solo la casa che lo dà il comune ma di come, Roma, ma come moltissimi italiani, come moltissimi italiani, bravo, purtroppo, come, purtroppo. Tutti, purtroppo c'è la crisi e in qualche modo noi significa altro problema che quando dicano criminalità o qualche un zingaro ha fatto qualsiasi cosetta, zingari tutti sono uguali, no non sono tutti uguali, no, ma questo non lo dice, però Borgonzoni non ho capito bene poi la questione sono, se... aspetta non ho capito tanti. sì no, ma ho capito, Borgonzoni non ho capito bene se occupare uguale non... no, ma io ho capito bene, occupare è una forma di integrazione per il signore che stava parlando quando è un reato per tutti noi. La cosa che per me non riusciamo bene a tirar fuori la questione è che qui c'è un razzismo al contrario, nel senso il razzismo è verso di noi, queste persone pretendono qualcosa su base etnica, cioè dicono io sono sinti, io sono rom per cui mi dovete dare, perché chiunque ha bisogno, perché non ha le risorse, non riesce a vivere, ha già tutti gli strumenti per poter chiedere aiuto alle amministrazioni come tutti noi. Non possono pretendere di avere delle vie agevolate su welfare e sui servizi solamente perché, ad esempio, faccio l'esempio degli finti, sono italiani come noi, però sono di un'etnia diversa. Non è possibile come cosa. Non si può sentire questa gente che dice io guadagno 1.000-1.500 euro, come ho detto prima, e dire non posso prendermi un appartamento, mi dovete dare una cascina. Insomma, problema di integrazione. Il tema, come vedete, è complicato. Noi però in passato ce ne siamo occupati e come promesso, come facciamo sempre, torneremo a occuparci anche per il futuro. Io qua però per il momento mi devo fermare. Voglio ringraziare tutti, da Lucia Borgonzoni, consigliere comunale a Bologna per la Lega, Carlo Stasolla, presidente dell'associazione 21 Luglio, e Kasim Cizmic. Grazie per essere stati con noi. Il traffico, poi parleremo di dipendenti pubblici, di magari furbetti che invece di andare a lavorare facevano altro, ma sono stati licenziati, no reintegrati. 24 mattino. Buon mattino, timbra il cartellino e poi se ne va. No. E dove va? Ma al bar. Giornale e caffettino. Caro mio, ma per chiudere in bellezza guarda cosa sfoglia adesso, la Gazzettona. Bravo! E solo dopo una buona mezz'ora fa ritorno al lavoro. Guardiamo adesso questa signora. Anche lei timbra e va a lavorare. Oh, no, signora! Il lavoro è dall'altra parte! E ci abbiamo messo la freccia! Era un video denuncia di qualche tempo fa di Striscia la Notizia. Valerio Staffelli, dipendenti dell'USL 20 a Verona, che timbravano e andavano a fare altro sotto il porticato, e poi addirittura va in posta. Giustamente, perché a quell'ora la posta non c'è nessuno. Saluto Maria Giuseppina Bonavina, che è direttore generale dell'USL in questione. USL 20, buongiorno. E grazie per essere qui. Allora, queste persone, dopo anche questa denuncia di Striscia la Notizia, sono state sospese. Sì. Sospese dal lavoro, perché insomma facevano altro, almeno in parte del loro turno. E come è andata a finire? Noi, l'azienda ULS 20 ha messo in atto il percorso disciplinare che in queste situazioni è obbligatorio, evidentemente. È andato a finire che due dipendenti hanno fatto ricorso e il giudice del lavoro ha sentenziato che considerato, cioè che il danno, che la pena inflitta, che erano 13 e 14 giorni rispettivamente di sospensione, la pena inflitta non era in sintonia col danno effettivamente apportato all'azienda. Cioè, come dire, un caffè in fondo che male fa. Allora, il ricorso è stato presentato da due dipendenti che hanno anche compiti di coordinamento, quindi si è ritenuto di dare una sanzione più pesante rispetto agli altri, proprio perché c'era l'aggravante del coordinamento. Sì, cioè coloro che dovevano in qualche modo controllare che altri non andassero a bere il caffè. Anche perché è l'unico metodo che abbiamo, che i responsabili controllino. Insomma, il dato di fatto è che sono stati reintegrati e avete dovuto pagargli gli arretrati. Abbiamo restituito quello che era stato tolto. voglio dire, ma questo, abbiamo parlato varie volte qui del tema dipendenti pubblici, per sì. Carità, nessuno vuol mettere una gogna, nessuno vuol mettere, ma non si deve. Ma che lezione possiamo trarre da questa vicenda? Perché poi alla fine sembra che in questo paese non cambi nulla quando si vogliono cambiare le cose. Ascolti, allora, io ho molto rispetto nelle sentenze della magistratura, nel senso che lavoriamo, ognuno segue la sua strada, io ho una strada disciplinare da seguire che risponde a determinate normative, la magistratura fa il suo corso, gli avvocati sono bravi e di conseguenza quello che esce come sentenza va attuata, applicata. Che cosa trarre? Non cose negative, perché il pubblico dipendente non può essere messo alla gogna continuamente. È chiaro che io non mi sento di concordare, pur rispettandola, con la sentenza, perché è come, questa è una cosa che ho già detto, ma è come se si dicesse che siccome molti violano i limiti di velocità, allora la violazione che no, ma infatti è interessante la motivazione, cioè il danno procurato attraverso andare a bere il caffè o fare una passeggiata al porticato, addirittura una l'ha posta. Però c'è da dire una cosa, sì. E con questo io chiaramente non voglio concordare con la sentenza, anche perché ho agito in modo diverso, cioè la sentenza è contro l'azienda, certo. Quindi il danno portato da un caffè su persone che lavorano molte ore e se sono dirigenti non hanno neanche lo straordinario, forse è un danno minimo. Sì. Però diciamo che l'immagine che viene resa in un momento in cui la pubblica amministrazione invece deve godere della fiducia, perché altrimenti non andiamo, degli utenti, perché se no non andiamo da nessuna parte. Il danno è forte. Esatto, no, ma infatti, per carità, ma io non sto dicendo che uno può andare a bere il caffè tre minuti, quattro, mica siamo alla schiavitù o a, voglio dire, al fordismo, che non ci si può alzare neanche la testa per le otto ore di lavoro. Però appunto, come dice lei, capisce che l'immagine di uno che timbra il cartellino, un dipendente pubblico, e va in posta a fare i fatti suoi, immagino. Poi io capisco che incontrare staffelli attraversando la strada per andare non a bere il caffè, non dà neanche la possibilità di essere se stessi nelle risposte. È colpa del nostro amico Valerione, ma no, guardi, al quale mandiamo un grande abbraccio, visto che ci ascolta, c'è sempre vicino. Però l'ultima domanda è questa, direttore, perché sì. Spesso questi casi vengono fuori laddove appunto c'è un Valerio Staffelli che li tira fuori, c'è una telecamera? No. Allora, questi casi vengono fuori quando c'è una telecamera di Striscia o di chiunque altro, perché chiaramente l'obiettivo è quello di farli venire a galla, ma io le posso garantire che in azienda da noi ci sono stati altri casi che non hanno avuto questa situazione eclatante nei media, perché li abbiamo appurati all'interno. E siete riusciti in quel caso in qualche modo a avere ragione anche in punta di diritto? C'è stato il giudice? Beh, non abbiamo avuto ricorsi, onestamente, ma neanche dei casi di Staffelli, tutti, anzi le dirò che qualcuno si sentiva quasi umiliato e quindi si è rifiutato. Sono brave persone, cioè, certo. Ecco. E qualcuno quindi umiliato non ha neanche fatto ricorso, qualcuno ora, sì. Se qualcuno pensa che questo caso è emerso solo perché Striscia la Notizia ci ha omaggiato della sua visita, no, questo assolutamente no. C'è da dire che noi non possiamo piazzare davanti all'orologio timbratore una persona che accerti se chi entra e chi esce ha timbrato il cartellino. No, ci sono delle persone che sono i controllori, che però lei mi dice in questo caso, in alcuni casi erano anche coinvolti, che dovrebbero fare proprio quello. Le telecamere, come lei mi insegna, non possono inquadrare l'orologio timbratore perché è vietato dalla legge. Faccia i bei tornelli come Brunetta, che voleva i tornelli da ministro. Tornelli, certo. No, io ho 92 sedi nell'azienda Ulse 20. Costerebbe un po'. A parte il costo, ma anche l'improponibilità. No, insomma. Ma certo, ma era una battuta conclusiva, lui li voleva, credo, per i magistrati, forse, se ricordo bene. Ma intanto la ringrazio e grazie per essere stata con noi. Maria Giuseppina Bonavina, direttore generale dell'USL 20, azienda sociosanitaria di Verona, su cui Valerio Staffelli, Striscia Notizie, ha messo la luce della telecamera per questi episodi di, come dire, assenteismo al lavoro dei dipendenti pubblici. Ci fermiamo, Ringrazio Lorenzo Nespoli in redazione insieme ad Elisabetta Fusconi e Alessandro Longoni. E questa è la squadra di 24 Mattino insieme al nostro regista Peter Nescafè. Simpatica ieri. Bescapè! Bescapè! Ci potete seguire anche su Twitter. Io sono Alino Milan. Quello è il mio profilo. Ciao, a domani, 6.30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.